Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, anche in Italia abbiamo un dinosauro. Incominceremo da qui. Benvenuti a Mebius e sentiamo i titoli. Ciro, il cucciolo di dinosauri italiano, è grande come un coniglio, ma è uno dei più preziosi nella storia della paleontologia. Alla Shell Eco Marathon vince il veicolo più efficiente. La gara è rivolta agli studenti e nell'ultima edizione quelli del Politecnico di Milano e Torino sono stati tra i migliori. Perché tremiamo se fa freddo? Questa è la domanda che ci arriva da Daniele attraverso un video postato su Facebook. Filosofi, psicologi, letterati e sociologi che costruiscono piattaforme informatiche. Un laboratorio che cambia alcune caratteristiche di fondo della progettazione di programmi. Chi è Ciro? Ciro, il grande antico condottiero? No, Ciro è piccolo, è un dinosauro. Abbiamo inviato Chiara Albicocco al Museo di Storia Naturale di Milano per parlarvi di Ciro e sentiamo subito Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, che appunto ci introduce Ciro, il dinosauro. Ciro lo conoscevamo già, era stato pubblicato sulla copertina di Nature nel 1998, diventando famosissimo come unico dinosauro con gli organi interni fossilizzati, ma la novità è che non sapevamo a che livello fossero fossilizzati. Allora, intanto è italiano al 100%, lo vogliamo dire? Certo, infatti si chiama Scipionix Samniticus, l'artiglio di Scipione, dedicato ad un geologo, Scipione Breslak, che 200 anni fa descrisse il giacimento, ma dedicato anche a Scipione l'Africano. Giacimento dove si trova? A Pietraroia, in provincia di Benevento, sul massiccio del Matese, e non è escluso che ci possa riservare nuove scoperte. Ecco, allora veniamo al fatto perché Ciro sia così speciale, perché è unico veramente al mondo. È unico perché oltre accanto alle ossa conserva in posizione perfettamente anatomica molti organi interni e questi organi interni sono fossilizzati con una perfezione che raggiunge livelli cellulari e subcellulari, cioè vediamo capillari, vasi sanguigni, cellule della muscolatura striata e liscia, addirittura i batteri che aveva nell'intestino. E addirittura quello che aveva mangiato e l'ordine in cui li aveva mangiati, questo è incredibile. Voi ovviamente avete avuto il supporto di tanta tecnologia dietro. Sì, e tanta pazienza e un lungo lavoro di anatomia comparata, anche perché non c'era nessun altro dinosauro con cui confrontare i tessuti molli. Quindi coccodrilli, uccelli e altri animali attuali ci hanno aiutato a ricostruire anche la sua fisiologia, in particolare la fisiologia digestiva, che ha mostrato per questo animale una dieta molto più varia di quello che si pensi per un cosiddetto dinosauro carnivoro. Cioè questo animale si cibò di piccoli rettili e di pesci come prede non occasionali, facevano parte della sua dieta. La cosa incredibile è che sono rimaste nella posizione in cui erano quando l'animale morì, grazie appunto alla conservazione di tutto il tubo digerente. E che cosa aveva mangiato nell'ordine? Nell'ordine si mangiò un pesce simile ad una sardina, grande circa 3-4 centimetri, che sappiamo visse anche per 9 anni perché abbiamo contato gli anelli di accrescimento delle sue squame. E poi si mangiò un altro pesce un po' più piccolo, una lucertola delle dimensioni di 5-6 centimetri e la zampa di una lucertola lunga probabilmente quanto il dinosauro stesso. E quindi qui pensiamo che siano intervenuti i genitori a smembrare una lucertola di dimensioni più grandi e a imbeccare il piccolo dinosauro con una zampina singola. Di sicuro non morì di fame, forse non possiamo fare ipotesi sulla morte, ma questa la escludiamo. Certo, di fatto il suo scheletro non mostra tracce di traumi evidenti e quindi possiamo solo pensare che sia annegato, travolto da un uragano che lo trasportò in questa calma laguna tropicale 110 milioni di anni fa, permettendo il ricoprimento del suo corpo e quindi una perfetta fossilizzazione. Ecco, qui di fianco a noi che ci sta guardando c'è una ricostruzione, un modellino. Ecco, Ciro era un cucciolo, era molto piccolo, possiamo dire un 20 centimetri, è morto poche ore dopo la nascita. Questo è interessante, indubbiamente possiamo fare ipotesi su quali dimensioni avrebbe potuto avere da adulto? Sì, dal confronto con compsognati di suoi parenti, dinosauri sempre di taglia medio-piccola, abbiamo visto che gli adulti di queste specie affini non superavano i 2 metri, 2 metri e mezzo di lunghezza, quindi probabilmente era anche questo il massimo della taglia raggiunto da Scipionix. Ecco, perché in Italia, vabbè, abbiamo solo lui, ma in Europa non abbiamo esemplari grossi, noi siamo abituati al Tyrannosaurus, eccetera, eccetera, perché abbiamo soltanto queste dimensioni, non è vero? In Europa sono stati trovati resti di dinosauri grandi quanto quelli nordamericani, anche in Italia abbiamo trovato dopo Scipionix i resti di un carnivoro che doveva essere lungo circa 8 metri. Certamente il fatto che la nostra Paleoitalia fosse un arcipelago di isole e penisole e quindi non un continente così esteso potrebbe aver favorito la vita di dinosauri di dimensioni medio-piccole, così come succede con la strategia evolutiva chiamata nanismo insulare in mammiferi di epoche più recenti. Ecco, un'ultima domanda sulla tecnologia che vi ha sostenuto. Abbiamo visto delle immagini durante la conferenza che metteremo sul sito di una definizione al micron. Come è stato possibile? Che tipo di strumenti avete utilizzato? Fondamentale è stato il microscopio elettronico a scansione acquistato in cofinanziamento con la Regione Lombardia qualche anno fa, che ci ha permesso di vedere cellule, strutture subcellulari come le striature dei muscoli scheletrici di questo piccolo dinosauro, che sono perfettamente fossilizzati molecola per molecola. Ci aspettiamo qualche altra novità, qualche altra copertina riservata a Ciro? Se potessimo avere finanziamenti per portarlo in Texas, dove c'è un apparecchio che si chiama MicroTac, che fa delle analisi che possono riprodurre in tre dimensioni oggetti molto piccoli, forse potremmo scoprire ancora qualcosa di nuovo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al quiz e quindi preparatevi a rispondere. Domanda rapidissima: perché quando fa freddo tremiamo? Prima possibile risposta: perché la bassa temperatura irrigidisce i muscoli e questi funzionano male. Ci scriverete temperatura. Perché il tremore genera un consumo di energia e questo produce calore e dà una risposta al freddo. Ci scriverete energia. Terza e ultima possibilità: è un difetto genetico dell'uomo ancora sconosciuto, nessun altro animale trema e quindi per questo parliamo di difetto. E ci scriverete uomo, dove al 349 238 6666 con un sms. Il libro che si vince questa settimana è Come provarlo? La scienza indaga sui diritti umani, scritto da Giovanni Sabato e edito da La Terza. In collaborazione con IBS.it. E adesso parliamo della EcoShell Marathon. Lo faccio con Gianmarco Galmarini, che è qui in studio con noi. Buonasera Gianmarco. E con Alfredo Marinucci, anche lui è qui con noi. Buonasera. Buonasera. Tutti e due del Politecnico di Milano. Andremo anche da dei vostri colleghi del Politecnico di Torino, anche loro implicati in questa gara che c'è da parecchio tempo, dal 1977 in Europa. Allora, gara che ha come obiettivo che cosa? Ha come obiettivo quello di percorrere una distanza prefissata in un circuito con dei veicoli e vince il prototipo che riesce a consumare la minor quantità di combustibile, che può essere per veicoli spinti da motori a combustione, benzina, diesel, oppure da pochi anni a questa parte ci sono anche dei veicoli alimentati ad idrogeno o a batterie o da pannelli solari. O da qualunque altra cosa uno possa venire in mente, l'importante è avere un certo consumo che deve essere molto basso, è diviso in categorie. Sì, negli ultimi anni sono anche nate le varie categorie con dei veicoli ibridi. E quindi c'è proprio un bel ventaglio di opportunità. Però no, e ovviamente non ci può essere un consumo assoluto. Per ogni categoria bisogna vedere chi consuma meno. Vengono riportate in due grosse categorie, quelle dei motori a combustione, in cui il consumo viene riportato nell'equivalente di percorrenza per chilometri con un litro di benzina, e poi l'altra categoria dei veicoli elettrici, in cui il consumo viene misurato in chilometri al kilowattora. Ok, certo. Dove si corre? Si corre attualmente, ci sono tre edizioni della gara, una in Europa, si è corsa in Germania, una in America che si corre a Houston ed una in Asia a Sepang in Malesia. Oh, voi avete vinto, Gasperi. Sì, quest'anno siamo riusciti nella competizione quella europea che si è conclusa appunto poche settimane fa, siamo riusciti a vincere nella nostra categoria, che abbiamo presentato un prototipo alimentato da celle fotovoltaiche, quindi un veicolo solare, che è riuscito a percorrere l'equivalente di 1108 km con un kilowattora. Che è veramente pochino. Sì, se riportassimo a un consumo equivalente in litri di benzina, calcolando l'energia contenuta nel litro di benzina, abbiamo fatto quasi 10.000 km con un litro di benzina. Ben più del raggio terrestre. Però forse la radio non ha le immagini, dobbiamo anche dire che sono veicoli molto particolari. Assolutamente, no? Sono dei prototipi estremi, proprio pensati, progettati, realizzati per avere dei bassissimi consumi, quindi hanno delle forme aerodinamiche molto, molto spinte, sono dei siluri, diciamo, che viaggiano, hanno tre ruote normalmente, sempre per ridurre le dimensioni del veicolo stesso, realizzati, il nostro in particolare, in fibra di carbonio, utilizzando materiali molto leggeri, titanio, alluminio. Il veicolo in ordine di marcia, pilota escluso, pesa meno di 40 kg. Oh, però il pilota ci deve essere, il no? pilota ovviamente. Assolutamente, è sempre uno studente del Politecnico e noi abbiamo due piloti, un ragazzo e una ragazza, che si alternano alla guida del veicolo, pesano più loro della macchina evidentemente. Oh, dunque si alternano per il semplice fatto che fate talmente tanti chilometri che non è pensabile che uno stia lì a guidare. Beh, in realtà la gara è su una distanza, cioè sono la possibilità di fare più tentativi, la distanza da coprire sono circa 30 chilometri, da fare circa 30 km all'ora di media. Ok, quindi viene poi moltiplicato e viene si estrapolato il risultato. Ah, perfetto. Abbiamo detto, Galmarini, che sono veicoli molto particolari, però danno indicazioni sulla costruzione di invece veicoli che potrebbero essere normali, oppure lo scopo è diverso? Vabbè, assolutamente, il Politecnico Milano in particolare prende parte a questa competizione non solo come un mero esercizio in realtà teoria. È un vero progetto di ricerca dove su questi veicoli vengono studiate e provate delle soluzioni che poi hanno sicuramente delle ricadute anche su veicoli più tradizionali, naturalmente con numeri decisamente diversi, però sia la metodologia di progettazione che applichiamo per realizzare questi veicoli, sia proprio le soluzioni scelte, siamo già riusciti anche con altri progetti invece più importanti, legati anche con aziende esterne, a trasferire parte del know-how acquisito in questa competizione su veicoli che vedremo a breve circolare per le strade. È andato via tutto liscio durante la gara? Naturalmente no, perché non è pensabile. C'è sempre qualche inconveniente, una gomma forata prima della partenza, una scheda elettronica che è saltata, insomma i soliti imprevisti di gara, però siamo riusciti comunque a portare a termine due tentativi completi di gara. Appunto, quindi, in uno dei due abbiamo stabilito il nuovo record assoluto. Okay. E quanti erano in tutto, globalmente, un ordine di grandezza, forse in tutte le categorie? Quanto partecipa? Sono più di 200 partecipanti. Va bene, allora adesso andiamo a sentire i vostri colleghi del Politecnico di Torino. Sono Andrea Airale e Alessandro Ferraris, insieme a Massimiliana Carrello, che è una docente di meccanica di base applicata, e sono stati intervistati dal nostro Alberto Agliotti. Il veicolo è di per sé appunto estremamente speciale, se non altro per il legame affettivo che abbiamo nei suoi confronti. È un veicolo che si è ispirato appunto alle regole della competizione e non solo. In realtà abbiamo fatto molto di più, abbiamo provato a immaginarci quello che potrebbe essere il veicolo del futuro, inserendo una serie di tecnologie estremamente avanzate, come per esempio la cooperazione veicolo-struttura, comunicazione veicolo-struttura in una prima fase, e poi in futuro il bioetanolo. Per questo abbiamo assolutamente buttato un occhio in fase di progettazione ad aspetti estremamente semplici, come quelle della biocompatibilità e del vero go green, insomma, riuscire a realizzare un veicolo totalmente riciclabile, insomma. Massimiliana Carrello, docente, vedremo mai in strada questo veicolo? Noi lo speriamo, l'abbiamo concepito insieme a questi ragazzi, appunto come ha detto Alessandro, non pensando solo alla Sceleco Marathon, ma guardando un po' più in là, quindi usando un po' il gusto e il design italiano, e mettendo al suo interno delle tecnologie innovative, dai materiali, dalla gestione informatica, allo schermo touchscreen, al sistema di sospensioni, insomma un mix di cose che speriamo qualcuno di questi studenti che domani si affaccia al mondo lavorativo usi per un veicolo del futuro. È arrivata anche una medaglia della Presidenza della Repubblica. Sì, siamo molto orgogliosi di questo. Quando abbiamo incontrato insieme al team, insieme a Nicoletta, che è il team leader del prototipo, Giorgio Napolitano, mai ci saremmo aspettati che in seguito a questo incontro, di cui conservavamo con una certa soddisfazione le immagini, le fotografie dell'incontro, ci arrivasse anche una lettera con una medaglia. Non abbiamo detto come si chiama il gruppo. Il team si chiama Team H2 Pulito, che è nato inizialmente lavorando sul prototipo a idrogeno Hydra, e adesso oggi abbiamo presentato un nuovo veicolo che si chiama XAM, che sta per Extreme Automotive Mobility. E quindi voi studenti non partecipate necessariamente a un singolo progetto che dura pochi mesi, ma è un lavoro che si protrae nel tempo. È un'occasione per lavorare in maniera parallela al percorso formativo tradizionale, quindi mentre diamo esami, mentre seguiamo le lezioni, in parallelo lavoriamo sul veicolo, progettandolo, costruendolo, assemblandolo e portandolo a una competizione. Quindi si ha l'occasione di crescere man mano che si resta all'università. E poi ovviamente il Politecnico è uno dei pochi atenei in Italia a riconoscere il lavoro in merito di crediti formativi legati ad attività di tesi o di tirocinio. Questo ci fa molto piacere, perché vuol dire che l'ateneo ci crede, ci supporta e ci aiuta tantissimo. Studenti da tutto il mondo? Sì, quest'anno nel team ci sono 45 studenti che hanno lavorato su Hydra e su XAM, magari in maniera separata, tante volte in maniera congiunta, cui una decina provengono da tutto il mondo, dall'Europa e fuori Europa. A me piace chiamarlo un esempio di integrazione culturale, perché lavorare insieme con persone che parlano lingue diverse è sicuramente un'occasione di integrazione, e occorre per tutti gli altri fare uno sforzo maggiore per capirsi. Integrazione anche dal punto di vista di ingegneria, perché all'interno del team ci sono studenti che arrivano da praticamente tutte le diverse specializzazioni di ingegneria e di architettura. Tutti che lavorano insieme con il fine ultimo di vedere questo veicolo funzionante tagliare la linea del traguardo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il prossimo weekend, come ogni anno, a Spoleto c'è Spoleto Scienza, organizzato dalla Fondazione Sigma Tau, che è anche lo sponsor della nostra trasmissione, e ogni anno i temi, devo dire, sono assolutamente interessanti. Quest'anno il tema è uno dei più intricati, affascinanti e complessi della scienza in generale, e certamente in particolare delle scienze biomediche. Vi dico, insomma, che in generale si parlerà di geografia della malattia, e lo faccio questa sera. È qui con noi Menotti Calvani. Buonasera Menotti Calvani. Buonasera. Lo faccio con lei, che è vicepresidente della fondazione, ma è anche medico, viene dalla ricerca e quindi questo tipo di contenuti li maneggia molto bene. Allora, credo che possa essere questo titolo, Geografia della medicina, chiaro a molti sotto un aspetto, e cioè nel mondo ci sono grosse differenze in termini, per esempio, di benessere e quindi di condizione di salute e di distribuzione delle medicine, e questo è già un pezzo delle cose che si discuteranno lì a Spoleto. Ma la cosa assolutamente invece molto diversa, molto meno prevedibile, è che noi stiamo come specie cambiando la geografia se guardiamo le malattie, si può dire così? Ma indubbiamente è così. Una volta avevamo le grandi epidemie che si spostavano con gli uomini, che avevano anche mezzi di trasporto, diciamo, un po' più lenti. E poi molte malattie venivano portate dagli animali, cose che in qualche modo erano anche prevedibili una volta conosciuti gli agenti infettivi. E oggi ci troviamo di fronte a popoli che si spostano, interi popoli che emigrano. E abbiamo anche gente che, senza avere così la definizione di emigranti, si spostano ugualmente utilizzando mezzi più veloci, gli aerei, tanto per fare una cosa. Quindi se c'è un'infezione, questa infezione si può propagare in tempi rapidissimi, creando cose che sono abbastanza, diciamo, nuove rispetto alle cose del passato. Ora, il problema è che non tutta la medicina e non tutte le malattie debbano essere viste da queste prospettive. Un anno fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato un numero, diciamo, definito come impressionante, cioè la quantità dei soggetti che nel mondo, stiamo parlando di miliardi, sono leggermente sovrappeso, ha superato praticamente l'altra metà, che col peso certamente non eccede. E questo significa che c'è una maggiore distribuzione delle ricchezze, una maggiore distribuzione del cibo, E quindi se oggi si emigra si fa un discorso un po' al contrario, una volta mancava il cibo, si emigrava, oggi manca il lavoro soprattutto, ma noi stiamo esportando negli stessi posti da cui molta gente si sta muovendo verso di noi, stiamo spostando il nostro stile di vita, quindi tanto per dirne una il fast food, tanto per dirne un'altra più tempo passato davanti alla televisione, molti bambini non fanno più le cose che facevano una volta, si rincorrevano, noi stessi da piccoli si giocava in strada, si giocava in strada, oggi ci sono i computer, c'è poca esposizione al sole e ci sono tutta una serie di cose che stanno aumentando il nostro peso, stanno aumentando, ahimè, anche i depositi di grasso e stanno in qualche modo unificando, globalizzando le patologie. Oggi l'ipertensione, il cancro del colon stanno diventando patologie con una incidenza, una frequenza che sempre di più fa somigliare il cosiddetto mondo avanzato all'altro mondo, quello meno ricco. Quello che lei sta dicendo, Menotti, è che in pratica dobbiamo assolutamente renderci conto che, non so, per esempio, questo mutamento della Cina, che soltanto 30 anni fa, andandoci, era un paese con una morfologia, no? Con una geometria, con un modo di essere delle case completamente diverso, adesso invece noi sappiamo che le grandi città cinesi assomigliano a New York, assomigliano a Chicago, no? E questa cosa sta producendo ovviamente dei comportamenti, dei modi di vita che diventano malattie. Diventano malattie anche perché stanno incidendo su una selezione, su una sorta di evoluzione che ha tenuto conto dei luoghi. Certo. In poche parole, ci sono popolazioni che vivono, che vivevano, che sono selezionate per resistere, per esempio, a una ridotta disponibilità di cibo. Non è che bisogna andare necessariamente verso est, anche verso ovest. Ci sono per esempio gli indiani che vivevano nel sud dell'America, vivevano nel Messico, che hanno un nome, si chiamano Pima come tribù. Ebbene, quelli che sono rimasti nel Messico vivono abbastanza bene, sono magri, hanno una loro vita senza patologie cosiddette di nuova generazione. Quelli che sono andati negli Stati Uniti o sono rimasti negli Stati Uniti, per esempio, soffrono di obesità, di ipertensione, hanno un aumento del cancro del colon e così via. In qualche modo questo stile di vita non tiene più conto, ma in un tempo brevissimo, di selezioni, di attitudini, di resistenza ai luoghi che si sono verificate nel giro di decine di migliaia di anni. Quindi, come i virus viaggiano rapidamente attraverso gli aerei, le abitudini di vita si globalizzano e creano un nuovo impatto selettivo. Noi certo. Tutti siamo i sopravvissuti, i selezionati, l'evoluzione ci dice così, adesso l'uomo sta creando le nuove condizioni di una selezione che avverrà in tempi molto molto più rapidi. E di questo si parlerà appunto a Spoleto Scienza. Le chiedo però, ci sono anche... intanto la prima riflessione è che stiamo veramente incidendo, se guardiamo le malattie, in modo molto forte su propri processi evolutivi. Forse non sappiamo nemmeno quanto è rapida questa capacità di intervento e quindi di mutazione. Questo ci fa ragionare su un'altra questione. Noi abbiamo avuto l'ebbrezza negli anni 50 ad aver decodificato il nostro DNA e noi abbiamo un codice genetico che trasmette a noi i caratteri dei nostri genitori e quindi anche l'informazione, diciamo così, selezionata. Oggi sta cominciando a venire fuori un'altra questione. La genetica ci dà così un programma di massima, siamo delle utilitarie o siamo degli scooter, però il periodo che passiamo nel grembo della mamma o il primo anno di vita sono momenti di informazione, cioè sono momenti in cui il nostro corpo sfrutta la genetica ma fa del nostro modello il miglior modello possibile per la sopravvivenza. Quindi succede per esempio che i bambini indiani oggi siano più grassottelli del passato, abbiano un incremento del loro grasso, ma soprattutto che gli indiani negli ultimi 20 anni sono andati avanti con un incremento delle patologie cardiovascolari che supera il 15% annuo, un'esplosione. Una volta avevamo i miracoli economici, oggi abbiamo i non miracoli della salute. Mm. Calvani, il tempo è tiranno e siamo in conclusione, ma noi poi dalla prossima settimana racconteremo quello che verrà fuori al convegno. Mi pare di capire, però le chiedo quindi un sì o un no, che questa nostra medicina che abbiamo oggi, che indubbiamente giudichiamo estremamente potente, in realtà siamo alle soglie di un bisogno di revisione molto profondo. È così? Assolutamente così. Grazie Menotti Calvani, e poi continueremo con gli esiti del convegno di Spoleto. Buonasera. Ora presto, arrivederci. Chissà se Ciro tremava, Chiara. Probabilmente sì, nonostante fosse un rettile, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Probabilmente sì. Allora, la domanda che noi abbiamo fatto nel quiz è la stessa, e difatti ci ha ispirato. Corrisponde proprio alla domanda, sì, che ci ha posto l'ascoltatore Daniele in un modo piuttosto multimediale, cioè attraverso il nostro profilo di Facebook Moebius Scienza, quindi chiunque voglia può utilizzare quel metodo per porci le domande, e ha postato un video chiedendoci appunto questo: quando abbiamo freddo, perché tremiamo? Qui negli studi della radio ogni tanto fa veramente freddino quando arriva l'estate con il condizionamento. Ah sì, c'è proprio da tremare, come dice il nostro ascoltatore. Ecco, non siamo magari a quel livello lì, però adesso dobbiamo dare la risposta. E certo, devo dire che è un quesito che interessa parecchi, perché sì, su internet ci sono parecchie domande su questo tema, e noi abbiamo chiamato Andrea Isidori, che è un endocrinologo dell'Università La Sapienza di Roma, per rispondere a questo quesito che appunto interroga tanti. Ci sveli qual è l'arcano. Intanto buonasera. Buonasera, diciamo che tremiamo, abbiamo brividi essenzialmente con lo scopo di produrre calore, è un riflesso che ha delle origini da un punto di vista dello sviluppo del cervello molto antiche, nel senso che sono una serie di riflessi che si basano su delle vie arcaiche, diciamo, da un punto di vista di sviluppo fisiologico del nostro cervello, e che hanno essenzialmente la funzione di produrre calore. Noi immaginiamo il motore di una macchina: quando si muove, la benzina che brucia genera un calore, oltre, diciamo, al movimento, e questo è essenzialmente quello che succede nei nostri muscoli quando tremano, quindi quando abbiamo i brividi, cioè lo scopo è quello di bruciare dell'energia per creare del calore, quindi essenzialmente un riflesso innescato dall'abbassamento di temperatura o da altri meccanismi che, se volete, possiamo indagare, finalizzato a generare calore e quindi riaumentare la temperatura corporea. Ecco, proprio la contrazione del muscolo, proprio fisicamente, genera questo calore. Essenzialmente noi contraiamo la nostra muscolatura perché avviene una reazione chimica che brucia una molecola energetica che è l'ATP, e quindi in questo, diciamo, bruciare questa molecola, oltre al movimento, si genera il calore. In questo caso la finalità dell'organismo non è quella di generare movimento, ma di sfruttare l'effetto collaterale del movimento, che è il calore. E i denti? Perché battiamo i denti? Battiamo i denti è lo stesso meccanismo. Essenzialmente è una contrazione del muscolo che è responsabile del movimento della mandibola, che è il muscolo massetere, che inizia a contrarsi anche questo in modo disordinato. Essendo un riflesso, diciamo, antico, chiaramente l'organismo non ha selezionato quale muscolo contrarre e quale no, e quindi essenzialmente questa contrazione può essere generalizzata. Però ci sono altri casi in cui si trema e non c'è freddo. Esatto, questo per esempio può essere il caso della febbre. No? Noi abbiamo l'esempio che quando si sta producendo, diciamo, una reazione immunitaria che induce la febbre, abbiamo questa sensazione di freddo e questi brividi. Questo perché? Perché in realtà il sensore che registra la temperatura corporea si trova all'interno dell'ipotalamo, che è appunto una struttura profonda del nostro cervello, che stabilisce che normalmente la temperatura dovrebbe essere a 37 gradi. Ora, quando c'è un'infezione, il nostro sistema immunitario rilascia determinate sostanze che spostano questo sensore più in alto, e quindi il sensore si immagina che la temperatura giusta sia, per esempio, 38 o 39 gradi, ma in quel momento la nostra temperatura è 37. Allora, a questo punto, che cosa succede? Che il nostro sensore si attiva, quindi percepisce una sensazione di ipotermia, quindi di abbassamento della temperatura relativa, e quindi innesca tutto quello che serve per portare la temperatura a 38, 39 o 40 gradi. Basta, noi siamo soddisfattissimi di tutto quello che ci ha detto. Chiarissimo. Grazie Isidori. Grazie a voi. Grazie mille. Buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Beh sì, non dovrebbero andare così le cose. Ti trovano, ti lanciano nello Star System e tu invece di darci dentro per sfruttare l'occasione che ti è arrivata, cosa fai? Ci metti un sacco di tempo, un'infinità, per arrivare almeno a una seconda performance spettacolare. Perché sarebbe diverso se una buona opportunità iniziale si manifestasse poi che tante speranze erano in realtà mal riposte. Un caso evidentemente aveva fatto sperare in un grande talento e però impressione sbagliata. Alla seconda chiamata dalla ribalta, un grande flop. Ma qui non è così, perché non v'è dubbio che stiamo parlando di uno degli 8 migliori interpreti nella storia di tutti i tempi dello Star System, o meglio, forse dovremmo dire del Planet System. E questo ci dice allora che la vicenda è una vicenda di pigrizia? Il 23 settembre del 1846, Johann Gottfried Galle, astronomo tedesco, individuò per la prima volta Nettuno, l'ottavo nostro pianeta. E da allora quanto tempo è passato perché Nettuno si degnasse di compiere il primo giro completo intorno al Sole? Ebbene, è proprio in questo mese di luglio del 2011 che Mister Nettuno chiude la sua prima orbita. È incredibile, che pigrizia. In realtà non possiamo criticarlo. Nessuno è un grande interprete, non v'è dubbio, ma la sua parte non ammette cambiamenti. È molto lontano, prima di tutto. 30 volte la distanza Terra-Sole. Una bella differenza, no? E poi c'è anche la velocità di rivoluzione intorno al Sole. Nettuno viaggia a 5,43 km al secondo, che è sempre un bel andare, siamo sui 20.000 km orari, ma è sempre un sesto della collega Terra. Questi numeri ci dicono una cosa importante sulla quale spesso non ci si sofferma. Le immagini che noi abbiamo del Sistema Solare sono ingannevoli. Certo, funzionano per farci capire la sequenza dei pianeti, ma in realtà le distanze relative sono tremendamente più ampie. Se dovessimo mantenerle anche nei grafici non si avrebbe affatto la sensazione di ellissi concentriche abbastanza vicine. L'intera struttura è molto più rarefatta. E questo ci porta anche a ragionare sul fatto che la forza di gravità, e lei, la Talent Scout, che forma la squadra dei pianeti, è davvero sorprendente. Se il Sole dista dalla Terra 30 volte meno di quanto disti da Nettuno, questo ci dice che da Nettuno il Sole ci apparirebbe una sferetta alquanto piccola, eppure quel corpo emana abbastanza forza per tenere legato a sé Nettuno, che ha un discreto corpaccione, visto che ha una massa 17 volte quella della Terra. La sonda Voyager 2 è passata vicino a Nettuno e gli ha fatto delle magnifiche foto, nelle quali il pigro pianeta appare azzurro, molto bello, ma è un azzurro compatto, che non significa distese marine, ma effetti combinati fra idrogeno ed elio in atmosfera, ghiacci ammoniaca e metano più sotto. Voyager 2 ci ha restituito un'altra informazione sul carattere singolare di questo robusto pianetone. Il vento. Pare confermato che sulla sua superficie viaggino venti a 2100 km orari. Non riesco a immaginare cosa possa significare un vento come questo. E quindi, mentre siete magari seduti su una terrazza in questa serata estiva e la brezza che vi avvolge è gradevolmente lontana dai 2000 km orari, guardate verso il cielo e pensate che Nettuno sta finendo il suo primo giro. Ci vorranno altri 164 anni. Sì, certo, direte, ma quanti ne ha fatti prima che lo scoprissimo? Sì, tantissimi. Nettuno non è affatto pigro. Sono uscito dallo studio e mi trovo al Politecnico di Milano. Sto recandomi in un laboratorio. Sono davanti al centro METID. Centro METID. Poi ci facciamo spiegare che cos'è. Adesso suoniamo. Ho un appuntamento con Susanna Sancassani. E quindi eccomi qui con Susanna Sancassani, direttrice del METID. Beh, è un acronimo che vuol dire? Metodi e tecnologie innovative per la didattica. E lì collaboration abbiamo aggiunto noi negli ultimi anni. e-collaboration. Sì, e-collaboration nel senso di strategie per supportare gruppi distribuiti nel raggiungimento di obiettivi comuni usando al meglio quello che è il patrimonio della rete, degli strumenti che la rete ci mette a disposizione. Gruppi distribuiti vuol dire gente che ha un interesse comune sparsa sul territorio. Sul territorio, per il mondo, o anche semplicemente appartenente a realtà o strutture, organizzazioni diverse che quindi non si incrociano dal punto di vista proprio fisico. Però siamo qui al Politecnico di Milano, voi fate piattaforme informatiche e qua è pieno di letterati, filosofi, sociologi, sì, c'è anche qualche informatico, però... Però pochi, perché quello che abbiamo cercato di sviluppare qua dentro è un metodo di lavoro che si basa soprattutto sulla costruzione di strategie. Quindi si lavora magari anche sul codice, ma magari per personalizzare degli strumenti open source o gratuiti che la rete mette a disposizione. Ma il valore aggiunto importante è fatto proprio di inventarsi dei modi efficaci e utili per utilizzare quello che c'è. Qui però, per capirci bene con tutti quelli che ci ascoltano, per carità in punta di penna, ma un po' garbata, ecco, c'è una certa critica a come procede l'informatica normalmente. Io personalmente sono d'accordo su questo, cioè ogni professione ha le sue deformazioni e tipicamente l'informatico è quello che cerca di adattare il mondo ai programmi e al software e non il software al mondo. Voi mettete l'accento proprio su questo modo. Mettiamo l'accento sui modelli d'uso. C'è una cosa che secondo me fa capire la diversità dell'approccio nostro rispetto ad altri contesti. Se pensi a degli strumenti molto noti, come per esempio Wiki, Wiki è lo strumento che è alla base della Wikipedia, che forse è uno degli strumenti più noti del web. Strumenti simili a quello che vengono utilizzati per la Wikipedia sono molto frequenti, in rete molto disponibili. Se decidi di fartene uno per conto tuo, puoi scegliere tra più di 100 motori che ti permettono di realizzare cose simili alla Wikipedia. Le diversità tra l'una e l'altra sono minime, sono magari fatti in linguaggi diversi, hanno una piccola funzionalità in più, eccetera. Ma da dove nasce questa ricchezza? Dal fatto che ogni sviluppatore, quando ha scoperto questa tipologia di strumenti, ha voluto farsi il suo e rifarselo da zero. La nostra proposta è invece quella di limitare molto questo investimento specifico sulla produzione di software e investire invece le risorse nell'inventarsi dei modelli d'uso intelligenti che permettano alle persone di raggiungere meglio i loro obiettivi insieme agli altri. Ma anche semplificando e introducendo dei linguaggi che non sono quelli classici dell'informatica? L'obiettivo che noi abbiamo è di far sì che gli utenti che utilizzano i nostri ambienti possano utilizzarli in un modo naturale, spontaneo, e che soprattutto quando ne escano abbiano avuto l'impressione di aver avuto una bella esperienza. E una bella esperienza però è un'esperienza che si svolge in un modo naturale, che ti dà la percezione di esserti arricchito in termini di apprendimento, di raggiungimento di obiettivi, ma soprattutto una situazione nella quale si è generato un flusso di spontaneità che non ti ha troppo obbligato a ragionare, a riflettere, a scontrarti con un ambiente ostico. Come mai l'informatica ancora oggi fa molta fatica a utilizzare, quindi a mettere insieme competenze che vanno dal letterato, il filosofo, il sociologo, il tecnico? Perché per far collaborare bene proficuamente questo tipo di profili bisogna investire tanto. Cioè non è spontanea la collaborazione proficua tra persone che vengono da estrazioni così diverse. Bisogna lavorare in contesti stabili dal punto di vista organizzativo, cosa che non è poi così frequente in questo settore, quindi lavorare a lungo con le stesse persone, far sì che siano motivate, sostenerle nel capire come fare a comunicare bene con gli altri. Noi abbiamo gruppi di lavoro che sono fatti stabilmente da informatici, psicologi, visual designer, grafici. E quindi hanno anche sviluppato un linguaggio loro costruito apposta per questo tipo di esperienze, quindi c'è bisogno di tempo. Certo, hanno lavorato sul linguaggio, ma anche proprio su modi di comunicazione anche visuali, anche grafici, anche basati su schizzi, su grafici, su simulazioni visuali che aiutino a comunicare tra di loro. E forse una parte buona di ragione del successo di questa esperienza viene anche dal fatto che una come te arriva dall'esperienza di architettura e del cantiere? Sì, io mi sono formata qui al Politecnico di Milano come architetto, è sicuramente uno dei patrimoni che ti porti più forti culturalmente l'idea del progetto e del progetto come un luogo prima di tutto di comunicazione tra soggetti che hanno per forza competenze diverse e in cui cosa molto interessante, la persona che governa è quella che ne sa meno di tutti sulle competenze specifiche, nel senso che l'architetto in cantiere ne sa meno dell'idraulico che è bravissimo rispetto agli impianti idraulici, meno dell'elettricista che è bravissimo sulla sua competenza, ma è quello che dovrebbe essere in grado di farli comunicare tutti nel miglior modo possibile. Un esempio di attività di progettazione nella quale si può misurare questa differenza. Quando noi sviluppiamo progetti in contesti internazionali andiamo in tutti i singoli paesi, conosciamo i destinatari, andiamo a frequentare i luoghi che loro frequentano per capire bene qual è il contesto. Per esempio nell'ultimo anno abbiamo lavorato molto con i paesi del Mediterraneo e soprattutto con una rete di università di paesi del Mediterraneo e siamo andati in tutte queste università per ragionare con loro sugli strumenti che utilizzano, sulle aspettative che hanno, sulle problematiche che si verificano e abbiamo proprio anche vissuto con la nostra pelle dall'interno che cosa significa per esempio in questi paesi censura, che cosa ha significato in questi ultimi tempi, soprattutto rispetto all'utilizzo degli strumenti che per noi sono più comuni come Facebook e YouTube e ci siamo resi conto di quanto grave sia la censura ma anche di quanto facilmente aggirabile e anche allegramente aggirabile spesso dagli studenti, dagli docenti che lavorano in queste università. E tutto questo però significa che se dovete lavorare in questo modo la vostra ricerca non può essere come si fa in altri campi, nella ricerca universitaria, qualcosa che è molto di base, molto teorica, che resta all'interno dell'università, no, deve essere qualcosa che è in costante relazione con l'esterno. Sì, il modello che noi abbiamo cercato di costruire è quello di un'officina, dell'officina dell'e-collaboration, che lavora naturalmente per l'interno dell'università, ma con un costante confronto con l'esterno, quindi alimentando e facendo crescere il proprio know-how così come fanno le nostre piccole imprese italiane, cioè lavorando continuamente con dei clienti reali sul territorio, misurandosi col mercato, muovendosi in giro per il mondo proponendo le proprie soluzioni e i propri progetti e riuscendo a mettere qualcosa di innovativo in ogni piccola esperienza. Io trovo molto interessante questo modo diverso di fare programmazione informatica che arricchisce le potenzialità di questo strumento, indubbiamente di grande importanza da tempo e nel futuro, e quindi è auspicabile che questa particolare competenza risulti interessante per molti nuovi progetti. Moebius vi ha detto tutto, ci sentiamo fra 7 giorni, buona settimana a tutti e a tutte.